Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Benvenuti in un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. Oggi degli ospiti particolari. Abbiamo qui con noi il presidio di Libera del Fermi, rappresentato da Tommaso Palmieri, Eleonora Scurio, Valentina Scorcu. Bene, parlateci un po' delle vostre attività. Cioè, cos'è questo presidio studentesco, questo di un liceo poi? L'attività del presidio di Libera Fermi nasce dall'idea di due ragazzi che, dopo essere stati al campo estivo di Cascina Caccia, hanno deciso di tramutare la loro esperienza in un'esperienza collettiva per tutta la scuola. E il bene a cui si sono recati è il bene confiscato alla famiglia dei Belfiore, mandanti dell'omicidio di Bruno Caccia. Bruno Caccia era il procuratore della Repubblica di Torino. Indagò sulle Brigate Rosse e sui traffici della 'Ndrangheta in Piemonte. Fu ucciso il 26 giugno 1983 per il suo forte rigore morale, che lo portò a non piegarsi alle minacce mafiose. Mi chiedo, Mimmo Belfiore, cosa starai pensando adesso? Se un po' non ti disturba che quella memoria che pensavi di avere rapinato tutta oggi è diventata una preghiera laica e quotidiana ogni mattina. Proprio qui, proprio dentro casa tua, nella tua cascina senza porcilaie, ma che è stata piena di porci. Mi chiedo se ti brucia, mentre in carcere recitavi la parte dell'invincibile, avere detto a Milano che Caccia l'avevi fatto ammazzare tu. Chissà come ci sei rimasto male, tradito da un infame e da un infermiere, che il coraggio lo praticano per amore e non per una puttana forma di maestà. Chissà, quando te la raccontano, che a casa tua piano piano i guardiani del faro stanno strofinando via l'odore della tua famiglia e della vergogna. Chissà che magari, come tutti i tuoi compari, non preghi di essere messo nelle mani di Dio e lui non ti aspetti sotto un lampione su una 128. Chissà se un giorno a voi mafiosi, per un allineamento degli astri, non vi succederà che riusciate ad avere un sussulto per vedervi allo specchio così anoressici di indignità. Questo è un pezzo tratto dal brano Il sorriso di Bruna Caccia di Cavalli, e che riguarda proprio la Cascina Caccia dove ci siamo recati. E da questo bene confiscato è partito tutto un anno prima, e ci siamo poi tornati nel 2011 per organizzare l'anno a venire, che avrebbe visto la nascita del presidio studentesco Mauro Rostagno, di cui parleremo dopo in realtà con Tommaso. La mattina in questo campo si lavora la terra, nel noccioleto, ci si prende cura degli animali, si risistemano staccionate e casa, e si fa qualcosa di concreto e si dà vita ad un bene di prima maltrattato comunque dalla violenza mafiosa. Di pomeriggio invece si fa formazione, persone quotidianamente impegnate nell'antimafia, che ci fanno riflettere su tutte le implicazioni che la mafia riesce a inserire nel territorio. Abbiamo discusso e per ripartire più consapevoli di prima. La sera si guardavano film o facciamo attività, per poi fermarci tutti insieme a chiacchierare o guardare le stelle, che lì, a differenza che a Bologna, si vedono così bene. Beh, che bello. Mi ricordo ancora quando sono andato anch'io a Cascina Caccia, ero con te Eleonora, non ti ricordi forse? Beh, certo. Con la buona Isa e tutti quelli di Atmos che salutiamo, ma adesso lanciamo una canzone, no? Sì, vai. Cosa lanciamo? Puntare Easy dei Talco. Dai. Ballo che il dolore non cancellerà. introduzione bellissima prima di questa canzone, ma una domanda che mi viene: ma cosa fate voi di presidio? Noi universitari siamo molto curiosi al riguardo, che cosa fate? Che attività? Ma organizziamo varie attività, tra cui una di quelle cui partecipiamo di più sono i banchetti, ad esempio durante gli open day oppure i ricevimenti dei genitori. Al Fermi, la nostra scuola, però siamo andati anche nelle scuole medie come le Farini per sensibilizzare i ragazzi più giovani e insomma vendiamo i nostri prodotti che sono coltivati nelle aziende confiscate. Ecco, sì, esatto. Accidenti, se sono preparato. E poi oltre a questo cosa fate? Per esempio, cioè nel senso, parlate di altre cose oltre a vendere roba, che sembra più un'azienda commerciale più che... No. Sì, sicuramente oltre a vendere roba facciamo tante altre cose, e soprattutto di formazione all'interno dei vari presidi nelle scuole, e difatti iniziano, diciamo, suddivisi in piccoli gruppetti all'interno della scuola, ognuno ha portato una piccola tematica da affrontare e l'ha poi esposta agli altri nostri compagni, e abbiamo avuto quindi dei fruttuosi momenti di dialogo su queste tematiche. E a livello di presidio Mauro Rostagno, cioè che coinvolge tutti gli istituti medi di Bologna, e facciamo diverse attività di sensibilizzazione della cittadinanza, quindi flash mob, cartelloni, e a inizio anno ci siamo divisi in tre gruppi di lavoro di cui parleremo anche dopo, che ci sono stati molto utili per approfondire le narcomafie, il gioco d'azzardo e la prostituzione. E con il presidio è nato nel 2011-12 dopo l'esperienza del Fermi, affiancata dall'esperienza del Copernico, che comunque aveva già al suo interno un comitato antimafia che organizzava un evento a fine anno appunto per sensibilizzare i ragazzi, i nostri coetanei al tema. E l'esperienza appunto del Fermi è subito dilagata in altre scuole, che ad oggi contano, oltre al Fermi appunto, il Minghetti, il Galvani, il Righi, le Laura Bassi, l'Artistico, il Renzi e appunto il Copernico, che è stato il primo ad aderire. E con queste altre scuole abbiamo, oltre a momenti di formazione, organizziamo a fine anno o a gennaio una cena d'autofinanziamento. L'anno scorso siamo riusciti a coinvolgere ben 300 persone, organizzando appunto questa cena sociale con i prodotti di Libera alla chiesa, mi pare fosse Chiesa Nuova. Sì. Il presidio è stato, diciamo, ufficializzato il 16 settembre del 2011 nella sede facoltà di giurisprudenza dal presidente onorario di Libera. E quindi qua nasce il presidio Mauro Rostagno. Beh, però mi create confusione: il presidio di Libera e poi c'è il presidio Mauro Rostagno. Ma che cosa sono queste due cose esattamente? Cioè, cos'è Mauro Rostagno? E soprattutto chi era Mauro Rostagno? Io non lo so personalmente. Mauro Rostagno nasce a Torino, prende subito parte ai movimenti del 68, ai movimenti operai, sarà uno dei fondatori di Lotta Continua nel 69. E durante gli anni del terrorismo se ne tirerà fuori, però resterà comunque coinvolto almeno a livello, diciamo, ideologico, e soprattutto la polizia continuerà a tenerlo d'occhio, tanto che nell'88 viene richiamato in Italia da uno dei suoi viaggi in India per l'omicidio del commissario Calabresi. Tutte le accuse poi cadranno, però questa esperienza lo tocca in modo particolare, e una volta quindi in Italia decide di fondare Radio Telecine, che è una radio che appunto si occupava di denunciare le di denunciare le infiltrazioni mafiosi nel territorio piemontese e gli intrecci massonici, gli intrecci politici e comunque gli affari sporchi che coinvolgevano la politica, un po' come faceva Peppino Impastato in Sicilia. Proprio per questa sua lotta, per questo suo esporsi, il 26 settembre dell'88 viene ucciso mentre sta tornando a casa. Ancora oggi il processo era poi decaduto, nel 2007 è stato riaperto da Ingroia, però ad oggi non ci sono ancora degli imputati e per questo motivo l'omicidio di Rostagno è quindi rimasto impunito. Abbiamo deciso di intitolare il presidio a Mauro Rostagno, appunto perché come lui noi ci vogliamo occupare di informazione e di sensibilizzazione, siccome siamo dei liceali e riusciamo a toccare magari una fascia di ragazzi abbastanza giovani, e quindi per queste ragioni abbiamo deciso di indirizzare il nostro operato sull'informazione e dei nostri coetanei e sulla sensibilizzazione della cittadinanza. Beh, come se noi universitari fossimo dei vecchi che girano e non fanno nulla, come diceva prima Eleonora Spurio, prima di entrare in studio. Comunque sia, questo è il presidio di tutti i licei. Sì. Ma voi del Fermi siete intitolati a qualcuno in particolare? Noi del Fermi abbiamo deciso di intitolare il presidio a Grazia alla Campagna, una ragazza uccisa dalla mafia per un incidente quasi. Praticamente Graziella aveva trovato lavorava come lavandaia insieme a sua madre e aveva trovato nella giacchetta di un cliente un taccuino che aveva tolto per lavare la giacchetta stessa, dimenticandosi poi di reinserirlo nella giacca quando ha consegnato la stessa al proprietario. Fatto vuole che il proprietario sia proprio un boss mafioso che, accorgendosi della mancanza del taccuino, si insospettisce e, per non rischiare che il taccuino finisca nelle mani di qualcuno che comunque avrebbe potuto accusarli, denunciarli, decide di uccidere Graziella e di recuperare questo taccuino. Abbiamo deciso di intitolare il presidio a Graziella perché noi alla fine eravamo uno dei primi presidi che nascevano e quindi era molto importante sensibilizzare i ragazzi sul fatto che la mafia è un fenomeno che non colpisce solo il sud, solo coloro che comunque ci vanno a mettere il naso, ma colpisce tutti, anche coloro che incappano sul cammino di qualche mafioso e magari non ne avevano neanche mai sentito parlare prima, ma hanno la sventura di capitare sotto il tiro di questi boss mafiosi che comunque uccidono senza scrupoli e senza pensarci. Quindi era importante secondo noi proprio dedicare questo presidio a una ragazza che era stata uccisa senza avere dei diretti collegamenti né con la mafia né con l'antimafia. Beh, adesso facciamo una pausa. Valentina, dai, lanciaci una canzone. Sì, adesso volevamo farvi sentire Il silenzio dei colpevoli di Caparezza. Mettiti comodo come in un condor che scorrono momenti lenti più del Vic 20 Commodore. Sulla tela la tua vita intera con un prologo. Tua madre che apre le gambe dal ginecologo. Poi le tasche deserte di un bimbo povero, ma ingordo di scoperte più di Colombo Cristoforo. Il tuo primo rimprovero poco dopo, avevi appiccato un fuoco per gioco come un tetoforo. Da quel giorno la tua lingua in sciopero, hai detto no, non t'opero, però io ti ricorderò che sei stato picchiato da quei balordi e sotto i colpi sordi ti sei detto non discuto, muto, un concorrente a tempo scaduto, abbattuto come un cane dal tartufo che ha perduto fiuto. Chiederti di raccontare l'accaduto sarebbe come per Cesare chiedere aiuto a Bruto. La verità è là, non devi negarla, ti tocca la palla, non resta galla, dalla tua bocca libera la favela come una farfalla che si vive dalla calla. I mutismi sono inascoltabili, timori hanno timoni deboli, urla termini interminabili, perché il silenzio è dei colpevoli. La riconosci quella? È la tua panda. Dentro ci sei tu con la coscienza sporca ed un profumo che sa di lavanda. Dillo alla fidanzata che ti guarda che c'è un'altra che alla quarta e pratica il tantra. Gli anni 90 vanno a rallentatore, un fotogramma in fiamma sto proiettore. Tuo padre brama, un figlio dottore, e passi gli anni al campus come un detenuto a San Vittore. Ammutolendo ti credi di restare in piedi, ma non ti chiami colline quanto meno siedi. Spesso cerchi seri che offuschino i pensieri, sì, ma non ti eclissi, ti celi dietro peli. Come vedi stenti, ne sprechi di momenti. Il silenzio in cuore tu lo svendi a peggiori offerenti. Parla fuori dai denti, non ti penti, parla nei parlamenti, mettili sugli attenti. La verità è là, non devi negarla. Ti tocco la palla, non resta a galla. Dalla tua bocca libera la favela, proprio la farfalla che si difende alla calla. I miei visti sono inascoltabili, i timori hanno timoni deboli, urla termini interminabili. Fine, fine della proiezione. Fatti un'opinione o finirai come i fatti di Metadone. Il tuo supporto vale molto più di un corto nella rassegna dove regna la rassegnazione. Chi tace soggiace alla volontà dell'loquace. Si beve cazzate come la guerra di pace. Rischi di impazzire più di Aiace. Devi venire fuori dal tuo fondo tutto bronzo di Riace. Invece come una prece ti stai affossando. Non fa felli come Pancio Fernando. Distratto d'occhi belli sembri la principessa Lisa, ma mi sa che non hai cigni per fratelli. Alza il culo e non fare il muto che non sei Charlie. Stand up for your rights come canta Marley. Come il Mosè scateni me strani tali. Sappi che ti prendo a martellate se non parli. La verità è là, non devi negarla. Ti tocco la palla, non resta a galla. Dalla tua bocca libera la favela, come una farfalla che si difende alla calla. I miei dischi sono inascoltabili, i timori hanno timoni deboli, urla termini interminabili, perché il silenzio dei colpevoli. La verità è là, non devi negarla. Ti tocco la palla, non resta a galla. Dalla tua bocca libera la favela, come una farfalla che si difende alla calla. I miei dischi sono inascoltabili, i timori hanno timoni deboli, urla termini interminabili. Il 16 marzo a Firenze si è tenuta la giornata nazionale in memoria delle vittime della mafia, con una grande partecipazione da parte di persone di tutte le età e provenienti da ogni parte d'Italia. E a Firenze, in questa bella città, ci siamo sentiti tutti uniti e vicini alle famiglie delle vittime di questa organizzazione criminale. Ci siamo sentiti parte di un grande sistema e abbiamo avuto la sensazione di poter veramente renderci utili nella lotta contro la mafia. Dopo questa introduzione di Valentina su una cosa, una manifestazione molto importante che si tiene ogni anno, appunto quella del 16 marzo, il giorno della memoria delle vittime di mafia, mi viene una domanda fondamentalmente: ma c'è anche una cosa qui a Bologna, per esempio? Sì, c'è anche a Bologna. E il 21 di marzo, primo giorno di primavera, si è tenuta la giornata e appunto in memoria delle vittime di mafia, e ha avuto luogo tramite un corteo in centro. Qui hanno aderito il presidio universitario, il presidio degli studenti di Libera e tutti i cittadini sensibilizzati appunto su questo tema. E come presidio ci siamo anche dati appuntamento per i vari eventi organizzati dai gruppi di lavoro che durante l'anno hanno appunto prodotto delle idee, hanno appunto prodotto del materiale col quale iniziare magari il prossimo anno e concludere questo. Uno di questi tre gruppi era il gruppo sulla prostituzione, che si è incentrato soprattutto sull'informazione e sull'approfondire questo tema per portarlo all'interno di ogni presidio, all'interno di ogni scuola. E abbiamo scoperto un sacco di dati molto interessanti su come ad esempio la prostituzione sia uno dei principali mezzi di reddito per le mafie, dopo soltanto seconda solo al narcotraffico, perché appunto la prostituzione, essendo in Italia illegale, è controllata al 100% dalle mafie, che quindi hanno il 100% dei ricavati. Ci siamo anche appunto per questo interrogati sull'importanza o no di regolarizzare la prostituzione per limitare appunto i ricavi delle mafie. Un altro gruppo che abbiamo sviluppato è quello su gioco d'azzardo, che ha costituito una sorta di monopoli. Ciascuna casella conteneva informazioni e dati sul gioco d'azzardo e venivano differenziati con vari colori il collegamento fra la mafia e il gioco d'azzardo, i rischi collegati a questo, le leggi che lo regolano, e una sezione particolare presentava le proposte di legge che avevamo ideato noi del gruppo e che abbiamo presentato durante due flash mob il 4 e l'11 maggio. Infine abbiamo anche trattato del narcotraffico. Infatti il gruppo sul narcotraffico, basandosi per gran parte sulle informazioni e il lavoro svolto durante l'anno dal medesimo gruppo interno al Galvani, si è confrontato sul tema nella seconda parte dell'anno, approfondendolo anche con storie di persone. Il tema si è diviso in tre parti: produzione, trasporto e consumo, e si è cercato di occuparsi in particolar modo di tre tipi di droga: cannabis, cocaina ed eroina. Una bella iniziativa sarebbe quella di partecipare il 25 maggio dalle ore 19 al costo di soli 3,50 euro all'aperitivo in via Galleria 25 presso la sala Passepartout. Via Galliera. Galliera, esatto. Volevo vedere se erano attenti e quindi partecipiamo tutti. Bene, siamo giunti alla fine della puntata. No, aspetta, c'è un'altra cosa che devono dire. Volevo solo aggiungere che grazie anche all'attività del presidio sono state raccolte per il progetto Io riattivo il lavoro, sono state raccolte 4.993 firme soltanto a Bologna. Cos'è questo progetto? È una campagna di raccolta firme lanciata dalla CGIL e approvata anche da Libera e da altri marchi quali Lega Coop o Arci, e è l'iniziativa è puntata a portare al governo una proposta di legge per la quale sono necessarie 50.000 firme in totale per regolamentare il lavoro all'interno delle aziende confiscate, che troppo spesso vengono abbandonate a lunghissimi processi burocratici, lasciandone inattive più del 90% e lasciando quindi a casa circa 80.000 lavoratori. E siccome questo è un periodo in cui il lavoro potrebbe essere molto comodo, e lasciare a casa 80.000 lavoratori per un passaggio che prevede dall'illegalità alla legalità è una cosa oltre che inutile anche dannosa, e poiché appunto accresce il benvedere da parte del pubblico della mafia e diminuisce quello dello Stato. Ma che bravi, speriamo presto, speriamo veramente presto di vedervi all'interno del nostro presidio. Qui è tutto, vi saluta Stefano che è anche il tecnico della trasmissione, il presidio universitario. Il presidio universitario in delega con me è il presidio di Libera Bologna del Fermi, e vi lasciamo con un'ultimissima canzone che è Disegnerò dei Nuio. Ciao, grazie. Bella. Ciao, ciao. Ti ricordi quando mi chiedevi di raccontarti storie e favole che inventavo sì per te, immaginandole addosso a me, realizzarle perché no, si può, però a te piaceva la mia fantasia, ingenua e visionaria, promesse campate in aria e un lieto fine per ogni storia. Ti ricordi quando io mi divertivo un sacco ad ubriacarti con la mia voce calma e travolgente, ricca di dettagli per dare ritmo alla narrazione. Certo, i contenuti tenuti un po' vaghi, un po' astratti, ma tratti incantavo pure te, capace di sognare con quella voglia di trovare un nuovo mondo in uno sguardo. E più si cresce e mi ricresce, peggio per te se non credi più alle favole. E più si cresce e mi ricresce, peggio per te se non credi alle mie favole. Disegnerò una casa su misura per noi, per dare alle finestre la forma degli occhi tuoi. Una nuvola per letto e una stella per Amashu, il profumo d'arcobaleno dei biscotti che fai tu. Ogni proiezione del mio mondo immaginario lasciava a bocca aperta. offerta ti lasciava senza fiato. La suggestione non è un reato. Convincerei convinti di quel che sono stato, di quello che un bel giorno diventerò. Mi concedo il brivido, ci credo almeno un po'. Col mio carisma ti avvolgerò. La fiaba poi è finita, la bella si è svegliata. Non volle più ascoltare frottole di streghe inesistenti, giullari innamorati e un rospo dentro ognuno di noi. La credibilità si sa, col tempo se ne va. Insieme a te che non hai più gli occhi per ascoltare l'incantesimo svanito che ho vissuto per un po'. E più si cresce, mi ricresce, peggio per te se non credi più alle favole. E più si cresce, mi ricresce, peggio per te se non credi alle tue favole.